Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, il quotidiano inglese The Guardian ha rivelato le regole del gioco di Facebook, ovvero il metodo con cui una squadra di 4.500 controllori vigila sulla condotta di quasi 2 miliardi di utenti, stabilendo quando e come un contenuto possa essere rimosso. Sono controllori umani, ma devono seguire un elenco di regole che ritrae fedelmente la logica con cui si scrivono i software, scrive Beniamino Pagliaro sulla Stampa, che poi continua. A volte in 10 secondi devono prendere una decisione. È una scelta che può anche cambiare la nostra vita, se riguarda per esempio un video pornografico pubblicato per vendetta, un commento razzista o un messaggio di propaganda terroristica che cerca nuovi adepti. I video in diretta di tentativi di suicidio, per esempio, non sono censurati in tempo reale, perché Facebook non vuole punire persone in difficoltà e per allertare i soccorsi. Cosa succede quando un utente scriverà «Qualcuno spari a Trump protestando contro il presidente americano»? Il contenuto sarà rimosso, perché sembra una minaccia a un capo di Stato. Altre minacce, anche violente, potrebbero invece essere tollerate in quanto non considerate un'intimidazione credibile. È proprio sulle parole che emerge la contrapposizione. Facebook rischia di sbagliare in ogni caso. Sbaglierebbe se censurasse preventivamente alcune parole chiave. Diremmo addio a letterature e racconti scabrosi, a frammenti di realtà. Entreremmo in un nuovo medioevo di parole messe all'indice. Sbaglierà se interverrà in ritardo provando a censurare un post che fomenta la violenza. Facebook per prima vorrebbe fuggire da questo dilemma, sperando di essere ancora la piattaforma neutrale delle origini. Ma le dimensioni contano. Oggi Facebook è per gran parte della popolazione occidentale un filtro per vedere la realtà. L'iperpersonalizzazione rischia di coccolarci in una bolla in cui vediamo o vogliamo vedere solo post che ci piacciono. Le tecniche svelate dal Guardian servono per tenerci al riparo da contenuti violenti. Ma davvero vogliamo delegare a Facebook questo compito? La fuga di notizie crea qualche imbarazzo, ma non fa poi così male al social media, perché racconta la complessità dei processi in corso. Come sempre, Mark Zuckerberg prova a rispondere con un approccio da programmatore. In un software gli errori si risolvono con le nuove versioni, si prova e si sbaglia, e si migliora. Nel manifesto scritto a febbraio, Zuckerberg ammetteva implicitamente qualche difficoltà dettata dai grandi numeri. La risposta è nella capacità di creare comunità di valore, comunità che sappiano trovare un equilibrio e autoregolarsi. Davvero ne saremo in grado? Quello che avete ascoltato era l'articolo di Beniamino Pagliaro «Così Facebook decide cosa cancellare dal nostro sguardo sul mondo», dalla Stampa del 23 maggio. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Letture di Radio 24. Nel 1952 il compositore statunitense John Cage presentò il brano 4 e 33, ovvero 4 minuti e 33 secondi di silenzio assoluto. La sua provocazione diede origine a una lunga serie di imitazioni. In un articolo pubblicato sul sito Orrori a 33 giri, Domenico Francesco Cirillo segnala alcuni dei più curiosi dischi silenziosi della storia. The Sound of Silence, The Silence and Beauty of St. Peter's, un disco ideato per stimolare la tranquillità. In questo caso vi è la registrazione sul posto del quasi completo silenzio della chiesa. Il disco venne registrato all'interno della piccola chiesetta di St. Peter, nel paese di Bishopstone, per oltre mezz'ora di quasi completo silenzio, se si escludono le porte scricchiolanti e i rari passi di eventuali visitatori, al fine di ricreare quanto più fedelmente la sensazione di pacifica quiete delle mura della piccola chiesa. The Wit and the Wisdom of Ronald. Il disco raccoglie su due lati completamente silenziosi, rispettivamente l'arguzia e la saggezza dell'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, per un totale di 45 minuti. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta fittizia Magic Records, dietro alla quale in realtà si nascondeva l'etichetta punk Stiff Records, meritevole di aver pubblicato album dei Pogues, dei Madness e dei Damned, tra i tanti nomi noti. All'interno vi era anche l'avvertenza «Attenzione! Potreste o non potreste ascoltare qualcosa di interessante in questo disco». E nei solchi del disco, a completo discapito dell'ascoltatore, un silenzio che è stato capace di dire molto, e in maniera amara, sarcastica e irriverente, risultando forse tra i migliori esempi di satira politico-musicale di ogni tempo. The Best of Marcel Marceau. Chissà cosa si aspettavano tutte quelle persone che hanno comprato quest'album all'epoca. Chi conosce il personaggio sa benissimo che Marcel Marceau è considerato il re dei mimi, l'unica persona che faceva seriamente ridere anche senza fare nulla, men che meno spiccicare una sola parola. Questo folle album non racchiude altro che le registrazioni delle sue migliori performance. In totale, 45 minuti di silenzio e due di applausi divisi su due lati. Jonty Semper, The One Minute Silence from the Funeral of Diana, Princess of Wales. Esattamente come indicato dal titolo, si tratta della registrazione del minuto di silenzio eseguito durante il funerale della principessa Diana e registrato dall'artista Jonty Semper all'Hyde Park di Londra, il 6 settembre 1997. Non c'è che dire, inquietante e ovviamente più potente del concetto stesso alla base dell'idea del disco di per sé. Jerry and the Holograms, The Emperor's New Music. Questo singolo, dal titolo geniale, non è altro che un disco vuoto. In alcuni casi vi erano scarti di produzione di case discografiche o dischi difettosi di altre band, i quali risultavano irriproducibili anche per il fatto di essere letteralmente incollati alla confezione, risultando pressoché inascoltabili. Spaz, Funky as Lil Platter. Le due tracce denominate Hemorrhoidal Dance of Death e Patches Are for Poser sono pressoché irriproducibili. Il disco degli Spaz, infatti, ha le dimensioni di un solo pollice, praticamente un disco in vinile per una Barbie, quindi non suonabile con una normale puntina. Possibile che la riproduzione dell'insolito disco sia un puro e semplice divertimento, tanto quanto una parodia dei gruppi Power Violence, che tendevano sempre di più a pubblicare singoli con grande frequenza, senza badare molto al contenuto dei brani. Hot Licks Hoolan, vero nome Craig Bill Meyer, è un musicista americano che, nonostante abbia militato in numerose rock band come polistrumentista, rimane conosciuto per lo più per essere stato due volte campione nazionale e una volta mondiale, nel 2008, di air guitar, una disciplina in cui l'unica abilità consiste nel mimare nella maniera più convincente e spettacolare possibile una chitarra elettrica a ritmo di musica senza alcun vero strumento in mano. La cosa più stupida è stata indubbiamente l'occasione di far registrare al campione un 45 giri per un'etichetta metal punk, facendo eseguire il brano solamente dalla chitarra Daria di Bill Meyer in due tracce di completo silenzio. Sound of Silence, The Most Intriguing Silences in a Recording History. Una curiosa compilation interamente composta da tracce silenziose provenienti dalle fonti più disparate. Lo si avverte solamente dal differente fruscio di sottofondo. Spesso tracce sconosciute, ma anche composizioni tratte da dischi di artisti noti. Tracce meritevoli di menzione sono Silence del 1932, un curioso pezzo di silenzio di 4 secondi, su cui Andy Warhol ha posto il copyright, la sarcastica The Ballad of Richard Nixon, tratta dal primo album dell'artista country John Denver, vera chicca, inoltre, il segmento One Minute Silence, brano dei The Planets, divenuto famoso in quanto il compositore Mike Batt ricevette un'accusa di plagio niente po' di meno che da John Cage per aver copiato la sua 4:33 e fu persino costretto a pagarne i danni. Johnny and the Dicks, più che un disco silenzioso, un non disco. Capitanati dal leggendario John Morton, già frontman della storica band proto-punk The Electric Eels e degli Ex Blank Ex, al contrario delle due rumorosissime band di Cleveland, l'attitudine di questi Johnny and the Dicks era quella di produrre arte nella maniera più diretta possibile, senza intermediazioni di sorta, in una produzione al negativo portata alle estreme conseguenze. Si definivano essenzialmente una non-band e la loro filosofia era quella di esibirsi esclusivamente dal vivo, ma senza imbracciare strumenti, in semplici esibizioni di non-musica, più vicina al teatro d'avanguardia che alla musica punk. Pubblicarono anche questo album omonimo in 250 copie, che consisteva solo nella classica copertina di cartone, ma senza il vinile. Music for Hangovers, più o meno come sopra, senza però la benché minima pretesa artistica. Una piccola bizzarria che apparve nei negozi nei primi anni 60 e il cui intento era semplicemente quello di vendere una bella copertina senza alcun disco all'interno, come scherzo agli amici o agli ignari acquirenti. L'album è solo il più famoso di una lunga serie di non dischi prodotti dalla pseudo-etichetta High Infidelity Records. In tutti gli album della serie, l'inserto che avrebbe dovuto contenere il vinile aveva impressa in grande la scritta «Ho comprato questo album per te come regalo. Scusa, ma non potevo permettermi di comprare anche il disco». Quello che avete ascoltato era l'articolo di Domenico Francesco Cirillo, La musica del silenzio, i 10 migliori dischi senza musica, pubblicato il 16 maggio sul sito Orrore a 33 giri. Negli ultimi anni, cioè da quando il mercato dell'energia elettrica e gas è stato parzialmente liberalizzato, ci sono state almeno 30.000 segnalazioni di attivazioni non richieste. Il meccanismo è molto semplice, come spiega Massimo Sideri in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del Magazine 7. Ecco ad esempio la trascrizione di una telefonata reale. Io sono Anna e la sto contattando dall'ufficio consumatori di energia elettrica. Stiamo chiamando perché ci risulta che lei sulle ultime 3 fatture per questo anno ha pagato più del dovuto. E proprio per questo motivo stiamo chiamando oggi per verificare una di queste fatture e vedere quando ha pagato di più e che cosa possiamo fare che nelle prossime fatture di eliminare questo. Siccome questa settimana siamo nella sua zona, stiamo chiamando anche lei per verificare e per vedere. Gentilmente mi trovi fattura, verifichiamo insieme. E ora alcune informazioni di base. A. Non esiste nessun ufficio consumatori energia elettrica. B. Le società elettriche, anche l'Enel, come vedremo, pretendono il pagamento dagli utenti anche quando è evidente che questi ultimi sono vittime di subagenzie che usano metodi disinvolti nella raccolta dei consensi. Figuriamoci se le società elettriche chiamano per dirci che abbiamo pagato più del dovuto. C. Se la società elettrica sa che abbiamo pagato più del dovuto, perché ci chiede di prendere la bolletta e leggergliela? Risposta. Perché chi chiama ha bisogno del numero della fornitura per cambiare il vostro contratto. A vostra insaputa, ovviamente. Benvenuti nel libero mercato dell'elettricità e del gas. I tribunali si muovono, ma non basta. Il 17 marzo è stata pubblicata la sentenza numero 498 del 2017 del Tribunale di Benevento sull'appello di Enel Energia contro un utente, il quale si era lamentato di addebiti illeciti e aveva fatto notare che la cosa era avvenuta senza alcuna manifestazione di volontà o stipula di un nuovo contratto. Il contratto era stato modificato da una società intermediaria, ma poi era stata Enel ad agire in giudizio contro l'utente. La decisione del tribunale? A favore dell'utente, contro Enel Energia. Un caso isolato? Dal 2010, da quando siamo passati a un mercato parzialmente libero, racconta l'avvocato Francesco Luongo, che ha seguito questa causa in qualità di presidente del Movimento di Difesa del Consumatore, ci sono state almeno 30.000 attivazioni non richieste. Secondo Luongo, un tipico raggiro è l'attivazione a nome di un morto. In altri casi, il sospetto è che vengano usati software di editing vocale per spostare le risposte giuste al posto giusto. Dico sì quando mi domandano «Lei è il signor Sideri?» E quel sì diventa la risposta a un'altra domanda, del tipo «Vuole cambiare contratto?» Fonti di parte, potreste pensare. D'accordo. Per questo ci siamo rivolti all'Enel, che sembra consapevole della situazione, poiché ha attivato un servizio di quality call, cioè un controllo di qualità per verificare come operano le agenzie a cui viene subappaltata la ricerca di nuovi clienti. Una delle principali cause di annullamento del contratto, ci spiegano, è il disconoscimento della firma. Traduzione, la firma non c'era o era falsa, probabilmente aggiunta da qualche agente in cerca di provvigioni facili. L'Enel nel 2016 ha effettuato, oltre alle quality calls, 6.500 verifiche dirette. Su questa base sono stati allontanati 160 agenti e 10 agenzie esterne hanno perso il contratto. Mica poco. Dunque, non sarebbe meglio fare più controlli? Non aiuta nemmeno una normativa contraddittoria che spinge Enel a far causa agli utenti. Il paradosso è questo. Da un lato, il codice del consumo, che recepisce la normativa europea, afferma che in caso di contratti illeciti nulla sia dovuto. Ma per quanto possa sembrare assurdo, la delibera 153 del 2012 dell'autorità del settore sostiene che anche in casi come questi si può detrarre solo la quota di commercializzazione. Insomma, quando arriva la fattura, si è costretti a pagare, anche se la firma sul contratto non è la nostra, salvo poi andare dal giudice. Questo perché la bolletta ingloba l'intera filiera del mercato. Non hai firmato? Paghi. Ti arrivano bollette a sorpresa da migliaia di euro? Paghi. Molte cause vanno avanti da anni. La sentenza di Benevento del 2017 si riferisce a una vicenda del 2010, proverbiale velocità della giustizia italiana. Perché in questo periodo assistiamo a una recrudescenza della telefonata selvaggia e della caccia al cliente porta a porta? C'è chi dice che Enel ha acquistato grossi quantitativi di gas dall'estero e deve piazzarli. Ma la vera ragione è un'altra. Il regime di tutela del prezzo ha i mesi contati. Il DDL concorrenza in esame in Parlamento prevede che dal 1 luglio 2018 il settore energia passi definitivamente al mercato libero. La fase di transizione sta alimentando il Far West. Si cerca di catturare più clienti possibili. L'assenso per il cambio di contratto non c'è? Si inventa. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Massimo Sideri «Perché ci chiedono di pagare bollette inventate?» dal magazine 7 del 25 maggio.